I rapporti dell'Italia con due regimi sono al centro della scena. Cosa fare con l'Egitto dopo che ieri un nuovo incontro tra le procure di Roma e del Cairo sul caso Regeni ha prodotto nulla di fatto? Come reagire alla feroce repressione sui cittadini di Hong Kong da parte della Cina? Risposte di rito sul primo caso, silenzio o quasi sul secondo. Il tutto mentre le forze politiche sono impegnate in tutt'altro, la discussione sul decreto semplificazioni per il quale si parla di un nuovo rinvio. Quella sul MES, ancora aperta in ore nelle quali il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis evoca un ripristino a relativamente breve termine del patto di stabilità. Con Covid, anzi, la Covid ha stabilito l'Accademia della Crusca che non pare alle spalle. Basta guardare agli Stati Uniti, dove ieri si sono registrati oltre 50.000 contagi, e la California è tornata a chiudere il servizio all'interno per bar e ristoranti. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Want me to love you in moderation? Do I look moderate to you? Sip it slowly and pay attention. I just have to see it through. You got me looking for validation. Passion's new. Want me to love you in moderation? Well, who'd you think you're talking to? Ed eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, la Covid. Sono 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi che diciamo il Covid. La Crusca ha detto che niente, mi spiace, è la Covid. Buongiorno, è giovedì 2 luglio, sono le 6:30 minuti e 18 secondi. E la Task Force è composta da Carmelo Lauricella in regia, Lorenzo Nespoli in assistenza, con Giorgio De Luca in assistenza in redazione anche Alessandro Marco Tulli e i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo. E voi naturalmente vi aspetto al 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, gli sms, i messaggi su WhatsApp, quello che volete. Anche la mail 24mattino@radio24.it e la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video, e quante ce ne sono, e Twitter e Instagram. Allora, da cosa iniziamo? Da Giuseppe Conte sul decreto semplificato. Ho visto che sull'Egitto e sulla Cina non abbiamo voci perché praticamente non parla nessuno. Parliamo del decreto semplificazioni, va, che dovrebbe arrivare, però la discussione è aperta nella maggioranza e quindi abbiamo le dichiarazioni di Conte, aperto il confronto. Io ho definito questo decreto legge la madre di tutte le riforme, che lo ritengo indispensabile insieme a tutto il governo per modernizzare l'Italia, tornare a far correre il paese, ed è per questo che in queste ore a livello governativo, col coinvolgimento delle forze di maggioranza, ci stiamo confrontando in maniera costruttiva per trovare le soluzioni migliori. 23 secondi per dire ne stiamo discutendo comunque. Per chi se lo ricorda, c'era una vecchia rubrica del settimanale satirico Cuore che faceva questa operazione, metteva la traduzione del testo, era un periodo nel quale il politichese era più politichese di quello attuale, però metteva a fianco del testo, metteva 30 righe di testo di un politico e a fianco la traduzione in una parola o due parole. E qua ne stiamo discutendo. Torna sull'ipotesi di taglio dell'IVA, Conte. Tra le proposte pervenute durante i tavoli di confronto vi è stata anche quella di un possibile intervento specifico sulle aliquote IVA, in relazione anche di introdurre, soprattutto in questo periodo, misure di sostegno ai consumatori. il governo, e qui se mi permette, ma nella sua stessa interrogazione non c'è discrasia tra la voce del Presidente e la voce del Ministro, abbiamo tutti confermato che è un'ipotesi, non abbiamo ancora deciso sul punto, la stiamo valutando. Con Gualtieri siamo d'accordo, il taglio dell'IVA è tra le ipotesi. Riassumo. Caro Roberto Arditti, come stai? Buongiorno. Eccomi, buongiorno, bene. Eccoci qua. Ottimo, direttore di formiche.net, caro Roberto. Dunque, siamo qua in attesa di questo decreto semplificazioni che il Presidente del Consiglio definisce la madre di tutte le riforme. È un tema anche questo col quale ci confrontiamo periodicamente con tutti i governi, Ma sì, insomma, anche un po' il tono dell'apertura tua della trasmissione di stamattina è quello che abbiamo un po' tutti, no? Certo che il confronto va bene, e a un certo punto però se c'è un mestiere che deve esercitare chi governa è porre fine al confronto e passare alle decisioni. Dopodiché, siccome anche decidere è un mestiere difficile, è giusto arrivarci dopo un processo, un percorso, che però a un certo punto deve avere una fine, tutto qua. Poi un'osservazione che mi permetterei di fare al nostro Premier è che anche questo fatto di andare in Parlamento citando se stessi, che io insomma dal punto di vista stilistico mi lascia un po' perplesso, tutti quelli che si citano mi lasciano un po' perplessi. Detto ciò, siccome abbiamo urgenze economiche e sociali molto importanti, altrimenti non si giustificherebbe una condizione nella quale una grande parte del mondo del lavoro italiano è in una situazione di almeno per ora diciamo accettabile sospensione grazie alla cassa integrazione. Sì. Noi forse ogni tanto in queste giornate tendiamo a dimenticare che per fortuna abbiamo questa condizione, e qui dipende dai provvedimenti varati dal governo e poi anche dal Parlamento, ma non ci dimentichiamo che questa condizione non sarà attiva in eterno. Sì, il governo ha intenzione di prorogare, lo dicevamo ieri, sia la cassa integrazione, il blocco dei licenziamenti fino alla fine dell'anno. Va detto che l'osservazione che viene fatta, l'abbiamo fatto anche l'altro giorno, è la stessa osservazione che abbiamo fatto l'altro giorno al sottosegretario Baretta, che era nostro ospite, insomma l'idea che un po' così si pietrifichi di fatto l'economia italiana, perché questo può rappresentare un problema. Però fino alla fine dell'anno tutto questo dovrebbe tirare, magari mirato per alcuni settori. Però hai ragione Roberto, stiamo reggendo per questo, perché c'è un sistema di ammortizzatori sociali che tutto sommato, con tutti i ritardi, con tutti i problemi dell'INPS, i nostri ascoltatori lo sanno bene, loro stessi ce lo raccontano spesso, che però sta almeno per quella parte dell'Italia, no? Poi c'è una parte non secondaria dell'Italia che lavora in condizioni di partita IVA, lavoro autonomo oppure di attività imprenditoriali di vario genere, soprattutto piccole e medie, che naturalmente stanno cominciando a fare i conti col fatto che i mesi di difficoltà cominciano a essere a questo punto 4, 5, 6 e tutto questo comincia un po' a vedersi. Diciamo che tutti i governi del mondo stanno facendo fatica, sta facendo fatica il paese più ricco e potente del mondo che sono gli Stati Uniti, come potremmo non fare fatica anche noi. Però diciamo che noi registriamo un po' di eccesso di questo tira e molla sulle decisioni, che non so se ce lo possiamo permettere, questa è la mia opinione. E questo è un punto importante. Questo, il tema del... La dico brutta, poi so che qualcuno la prenderà male. Il tema del traccheggiare, che però in questo caso è un traccheggiare dovuto a motivazioni eminentemente politiche, ha a che fare anche col MES, il Fondo Salva Stati, l'utilizzo del Fondo Salva Stati. Ora potremmo chiudere la discussione che abbiamo ogni volta con qualche ascoltatore in modo abbastanza semplice e dicendo questo: non ci sono condizioni segrete sul prendere i soldi del MES, per il semplice fatto che ogni debito, nel momento nel quale viene contratto, si firmano delle condizioni prima, quindi puoi anche andare a vedere le carte e poi decidere eventualmente di tirarti indietro. Ci sono delle ragioni politiche che consiglierebbero di prendere il MES e ci sono delle ragioni economiche. Nelle scorse ore la nostra collega corrispondente da Francoforte, Isabella Bufacchi, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook dei grafici molto interessanti, e sono i grafici che mostrano il costo del finanziamento dei singoli paesi. vabbè, quanto si finanziano con i bond, con le obbligazioni emesse da loro, a quanto si finanziano, con che tasso di interesse, con le obbligazioni a 10 e a 7 anni. E sono dei tassi di interesse che... quelli per l'Italia sono i terzi in ordine dopo Grecia, che è già sotto un programma MES ed è il motivo per il quale non richiede il MES, e Cipro, che è nella condizione anche quella che conosciamo, sia per i 7 che per i 10 anni. E quindi prendere invece un prestito a un meno 0,07% stimato di tasso di interesse potrebbe essere conveniente. Comunque, come sapete, la questione è eminentemente politica. Sì. Roberto, aspetta, sentiamo un attimo Conte su questo, sentiamo Conte. Adesso siamo concentrati sul Recovery Fund, sul Next Generation EU. Dobbiamo lavorare, io sono concentratissimo su questo negoziato. Alla fine avremo un ventaglio di proposte e soluzioni che verranno definite. Frattanto avremo i conti dalla ragioneria dello Stato, perché non dobbiamo ragionare su astratte valutazioni. Anche qua c'è chiaramente, Roberto, un problema interno al Movimento 5 Stelle che fa sì che il Presidente del Consiglio si prenda tutte le cautele del caso, anche perché ci sono pezzi della maggioranza che si stanno perdendo, soprattutto in Senato. Sì, questo no, non c'è dubbio. Il tema, il punto che a me sta più a cuore è questo. E vorrei evitare che tutto questo dibattito prendesse una classica piega italiana. Mi spiego subito. Il tema delle risorse e di dove prenderle è solo una parte e probabilmente neanche la meno interessante di tutta questa storia, perché è evidente che almeno per un po' ancora esisterà un atteggiamento di grande disponibilità delle istituzioni europee sul debito pubblico dei vari paesi, compresa l'Italia, che pure è quello in situazione per rapporto col prodotto interno lordo per molti versi più critica, sia nella percentuale che nella dimensione del nostro debito pubblico. In sostanza, come da lettera di Mario Draghi di qualche mese fa, questo è un tempo di aumento del debito pubblico e tutti l'abbiamo capito. Quindi, MES o non MES, che io personalmente credo faremo bene ad utilizzare, ma comunque, MES o non MES, avremo risorse a disposizione. Tendenzialmente, come ricorda un giorno sì e l'altro pure il primo ministro olandese, più in forma di prestito che in forma di contributo a fondo perduto. Prestito significa che se ti danno di quei soldi, a un certo punto li devi restituire. Non è difficile da capire come certo, concetto, no? Certo. Beh, ok. Ora, la difficoltà italiana più evidente negli ultimi decenni è stata quella non tanto di avere i fondi, parlo dei fondi europei, ma di utilizzarli con già, progetti che già diventano realtà. Già, bravissimo Roberto, perché voglio dirlo questo, ci sono anche dei soldi a fondo perduto che regolarmente l'Europa dà, sono per esempio i fondi di coesione, quelli per il mezzogiorno, tutto quello che sappiamo, e il problema è che non li sappiamo spendere. Bravo, questi soldi. Tutta questa roba qua non è fatta di elargizioni, di la serie vieni qua, ti do un miliardo, te ne vai e poi fanne ciò che vuoi. Ma è fatta di io ti do un miliardo se tu presenti un progetto la cui esecuzione viene controllata, verificata nei tempi, nei modi, nel risultato e così via. Su questo tema della progettualità io non ho capito bene se il piano Colao, i 9-10 giorni degli stati generali hanno prodotto dei piani. Faccio un esempio concreto. Sì. Io credo che in Italia c'è spazio straordinario per un piano gigantesco e facilissimo da vedere con gli occhi di ricostruzione dei nostri edifici scolastici. Sì. Perché io trovo inaccettabile che se guardiamo le nostre scuole sono in moltissimi casi vecchie e cadenti, la diciamo semplice. Sì. Bene, un piano di edilizia scolastica, lo capisce anche un bambino che è una cosa lì fattibile, no? Sì, certo. Ecco. Certo. Allora, vogliamo metterlo nero su bianco, un piano di edilizia scolastica da 3 miliardi di euro e presentarlo agli uffici competenti, uso volutamente questa espressione un po' ironica, a Bruxelles e finanziarlo regione per regione, provincia per provincia, comune per comune? Questo ci chiederanno di fare per darci soldi. Sì, sì, ed è quello che dovremmo fare per noi fondamentalmente. Esatto. Poi la vediamo come la condizionalità esterna. No, non è la condizionalità esterna, è quello che deve fare l'Italia. qualcosa ancora dalla giornata ieri, qualche voce ancora, io direi che possiamo sentire, beh, molti nostri ascoltatori sono rimasti invischiati in quell'inferno che sono state in questi giorni le autostrade liguri. Qual è la storia là? Che c'è un piano per la messa in sicurezza delle gallerie che sta di fatto bloccando tutto, perché è stato richiesto ad Autostrade per l'Italia di fare tutto molto velocemente entro una certa data, solo che poi sono partite. Innanzitutto è finito il lockdown, poi sono iniziate le vacanze e così la ministra De Micheli. Quella è l'area del paese a più alta concentrazione di viadotti e gallerie e quindi il numero, anche in valore assoluto, dei controlli è più elevato. So che è una grande sofferenza, stiamo mettendo in campo tutta la tecnologia disponibile sul mercato per alleviare questa sofferenza, ma la sicurezza per me viene prima di tutto e sono anche, diciamo così, consapevole che questo ha delle conseguenze, ma prima di tutto, soprattutto dopo quello che è successo, a maggior ragione dopo quello che è successo, la sicurezza viene prima di tutto. La sicurezza viene prima di tutto, ma intanto ci si mette un'ora e mezza, due ore a fare 30 chilometri. Oh, mi viene in mente a proposito della questione dei fondi, perché molti ascoltatori, qualcuno ci scrive, ci dice, vabbè, insomma, ma l'Europa non dovrebbe darci prestiti, dovrebbe darci solamente soldi a fondo perduto, e con l'idea di darci soldi a fondo perduto senza verifica. Ma noi siamo quelli che hanno continuato ad iniettare miliardi in quel buco nero che è Alitalia per anni. Ma voi li dareste i soldi a fondo perduto a un paese come il nostro senza fare un minimo di verifica su come li spende? Non lo so, traffico. Mattino. Ah sì, poi ha naturalmente ragione l'ascoltatore che dice che uno dei motivi principali per il fatto che non spendiamo i soldi a fondo perduto che ci dà Bruxelles e che prevedono un cofinanziamento, in parte prevedono un cofinanziamento, e che spesso gli enti locali, soprattutto al sud, non hanno la capacità e le risorse per la progettazione. Anche questo è vero. Però queste sono cose che si possono mettere in campo oggettivamente, cioè non è che è una giustificazione per non aver speso questi soldi. Veniamo alla questione trovata un po' su tutti i giornali, un po' dappertutto, ed è la vicenda di Hong Kong. Oggi, se volete, si mescola da un punto di vista politico italiano, si mescola con la vicenda Regeni e con la vicenda dell'Egitto, perché vanno un po' sotto il cappello, se permettete, dei nostri rapporti con i regimi dei quali da una parte abbiamo bisogno per ragioni commerciali, economiche, geopolitiche, e dall'altra parte però ci spingono a confrontarci con delle realtà che negano i diritti umani. Ed è ad Hong Kong, ed è di Hong Kong che vogliamo parlare adesso, e lo facciamo con Lisa Yuk, editorialista di Reuters, già caporedattrice del settore finanziario di Reuters a Hong Kong e autrice di un libro, 30 giorni a Hong Kong, frammenti di una protesta. Lisa, buongiorno e benvenuta, eccoci. Buongiorno Simone, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Che cosa rappresenta questa stretta di Pechino che è arrivata nelle scorse ore, è arrivata in occasione dell'anniversario, il 23esimo del ritorno di Hong Kong sotto il dominio cinese, e ha portato ieri a 380 arresti. Cosa rappresenta, Lisa? Possiamo dire che l'introduzione di questa legge sulla sicurezza nazionale rappresenta il colpo di grazia al regime di parziale autonomia che era stato concesso a Hong Kong nel 97, quindi il momento del passaggio di Hong Kong alla Cina, e questa parziale autonomia garantiva diritti civili che dovevano durare per almeno 50 anni. Chiaramente con l'introduzione della legge, che è molto ampia e prevede pene anche fino all'ergastolo per reati che attentano alla sicurezza nazionale, questa diciamo questa parziale autonomia viene meno, perché Pechino ha imposto la legge direttamente e c'è il rischio che venga applicata alla maniera cinese, se posso dire così, cioè la legge è vaga, non è chiaro se tutti i reati verranno perseguiti a Hong Kong direttamente, anzi c'è la possibilità di estradare in alcuni casi le persone ritenute sospette e giudicarle direttamente in Cina. Quindi questa linea tra l'altro di confine... perdonami Lisa, come dato di cronaca dico che 10 delle persone che sono state arrestate ieri sono state arrestate in base alla nuova legge, tra cui anche una ragazzina di 15 anni che aveva un cartello che recitava indipendenza per Hong Kong, e quindi io adesso non so come sia il regime detentivo e il diritto penale per una ragazzina di 15 anni a Hong Kong e in Cina, e però è per dare la misura ai nostri ascoltatori di che cosa è successo ieri. Prego Lisa. Assolutamente, tra l'altro la legge è molto vago, la legge è stata pubblicata ieri, diciamo resa nota nei suoi dettagli ieri per la prima volta, era stata annunciata a maggio, come forse ricorderanno i nostri ascoltatori, assolutamente a sorpresa ed imposta direttamente dalla Cina. L'ambito di applicazione è molto vago, cioè non si capisce bene, potrebbe qualsiasi cosa, potenzialmente anche magari dei commenti sui social negativi oppure un atto di vandalismo anche banale nei confronti diciamo di proprietà dello Stato, potenzialmente potrebbero rientrare nell'ambito della legge, tra l'altro anche degli aspetti extraterritoriali, quindi è una legge veramente molto ampia i cui contorni appunto sono vaghi. Perché ci preoccupa? Ci preoccupa sicuramente dal punto di vista dei diritti umani, ma preoccupa anche perché, come i nostri ascoltatori ricorderanno, Hong Kong è un grandissimo centro finanziario e la sua ricchezza, la sua fortuna si fondano sullo stato di diritto, comunque sulla certezza dell'applicazione della legge a Hong Kong. Quindi questo è un grosso punto interrogativo per chiunque opera ad Hong Kong, anche se magari non direttamente coinvolto in atti che possono ledere la sicurezza nazionale, però il punto interrogativo su come verrà applicato il diritto a Hong Kong in senso ampio diciamo, è aperto, questo c'è questo punto interrogativo. Roberto Arditi, qua registriamo un'ambiguità che chiaramente non è solo dell'Italia, vogliamo essere chiari sul punto, non c'è un'ambiguità solamente dell'Italia nel rapporto con la Cina di fronte a queste palesi violazioni dei diritti umani. Non siamo soli sotto questo aspetto. È certo che ieri il silenzio da parte governativa non si è registrato nulla. Ma senti, noi siamo di fronte a una gigantesca normalizzazione da parte cinese dell'anomalia di Hong Kong, normalizzazione che ormai le autorità cinesi fanno senza nemmeno porsi troppi problemi di reputation, mettiamola così, nel senso che non considerano le eventuali reprimende, sempre più blande infatti, come anche tu ricordavi, della comunità internazionale, tali da impensierirli. È evidente che siamo di fronte ad una normalizzazione che restringe in modo clamoroso l'anomalia democratica, chiamiamola così, di Hong Kong, e accelera il percorso iniziato nel 1997. Però siccome le relazioni internazionali sono inevitabilmente innanzitutto figlie di un atteggiamento di realpolitik, nessuno al mondo oggi può permettersi di andare a uno scontro brutale con la Cina, nemmeno gli Stati Uniti, essendo la Cina dal punto di vista geopolitico ed economico il più importante paese del mondo. Di conseguenza, quando rileggeremo questa storia tra 10 o 20 anni, vedremo, a mio avviso, e lo dico purtroppo, che il processo di normalizzazione di Hong Kong sarà stato completato con l'uso della forza e piegando molte delle regole anche di base di un'idea democratica della vita all'obiettivo della vita civile, individuale, all'obiettivo del governo cinese. Tanto vale dircela chiaramente, perché le cose stanno così. Lisa, è un po' un tema quello che sottoponeva Roberto, no? E che del quale vediamo testimonianza appunto nella risposta piuttosto tiepida di pezzi importanti della comunità internazionale, a partire dall'Europa. L'Europa ha fatto certo una dichiarazione contro questa repressione, certamente gli inglesi, che però sono più direttamente coinvolti nella vicenda, hanno detto con Boris Johnson faciliteremo i visti da Hong Kong, e però è chiaro che con questo attore è difficile trattare. Ma sicuramente è difficile trattare, però io non direi che, forse l'Unione Europea sicuramente è tiepida, come entrambi avete menzionato, però per esempio se guardiamo alle reazioni degli Stati Uniti, la reazione non è stata diciamo silente. Allora, qui si parla di potenzialmente imporre delle sanzioni a banche che trattano con funzionari che possono in futuro essere legati all'applicazione della legge nazionale. Si parla anche, diciamo, questo l'ha detto il senatore Rubio, di cercare, e comunque è un tema in discussione già da tempo, comunque di cercare di bloccare l'accesso ai capitali americani di società americane che magari in futuro si volessero quotare. Quindi ci sono comunque dei segnali, non dico di voler andare allo scontro diretto, ma almeno di reagire, no? Sì. L'altro grosso tema è quello di rimuovere lo status privilegiato commerciale che Hong Kong ha. Hong Kong fino a questo momento ha goduto di uno status separato dal punto di vista commerciale. Rispetto alla Cina ci sono meno dazi, si possono commerciare più merci, e questo potrebbe essere anzi sicuramente, diciamo, si va verso sì. La rimozione, no? Da parte degli Stati Uniti, quindi diciamo un minimo di reazione c'è, soprattutto negli Stati Uniti. Allora, torneremo a parlare di tutto questo, lo dico agli ascoltatori, soprattutto ai nostri rapporti con la Cina, lo faremo col sottosegretario agli esteri Di Stefano alle 8:20 e poi saremo col vicepresidente del COPASIR Adolfo Urso. Tanto ringrazio Lisa Iucca, editore di Reuters, autrice del libro 30 giorni Hong Kong, frammenti di una protesta, e Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net. GR24, ci risentiamo tra un attimo con la rassegna stampa.